oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E ben ritrovati alle 13.02, siamo puntuali, se quando vogliono essere puntuali anche i nostri professori dall'altra parte del vetro, noi cominceremmo e con il buongiorno a Francesca e Francesco, oltre la crisi, a voi! Beccati in flagrante mentre stavamo chiacchierando. E vabbè, non sì, perché tanto male, esatto, tanto presto. Sì. Va bene, cominciamo subito. Allora, intanto l'associazione Amici di Rivivere ci comunica oggi che domani sarà il World Radio Day 2014. Come riporta l'UNESCO, quindi un giorno per celebrare la radio come mezzo di comunicazione, per valorizzare la cooperazione internazionale tra le emittenti, incoraggiare i maggiori networks, eccetera, eccetera, per il servizio che la radio fa, sia per le comunità che per i suoi ascoltatori, appunto, e come libertà di espressione, uguaglianza di genere attraverso la comunicazione radio. Quindi direi che anche la nostra piccola trasmissione è un granello di sabbia che si infila in questo contesto. Ma lo posso dire in inglese? I love radio. Oh wow. Grazie per lo spot pubblicitario. I love radio live ogni domenica dalle 19 alle 20 non era su quella. Radio Città Fujiko. Ecco. Niente, io lo sapevo, tu non lo potevi sapere, ma io lo sapevo che avresti combinato un danno. Lo ignoravo. Lo so. Bene, allora adesso andiamo subito all'argomento di oggi, perché l'altra volta ci siamo lasciati, si parlava di suicidio fondamentalmente, eravamo partiti dai suicidi sul lavoro, da quell'operaio che nella provincia di Napoli si era tolto la vita, e continuiamo su quel filo che ci porta anche verso un altro argomento. Notizia di ieri è l'ennesima, perché anche in questo caso si tratta dell'ennesimo caso di bullismo, in questo caso attraverso la rete, perché adesso passa spesso attraverso la rete, ma voglio dire, non l'ha certo inventato la rete il bullismo. E quindi il Mattino di Padova di ieri riportava un articolo: ragazza di 14 anni spinta ad uccidersi dagli insulti su ASK.fm, che è questo sito dove appunto i ragazzi si mandano messaggi molto spesso forti, critici, pesanti, insultanti, ma a parte il sito in sé, che insomma a noi ci interessa andare a indagare il meccanismo. E dicevamo appunto, il bullismo è sempre esistito, non mi piacerebbe dire sempre esisterà, però è molto probabile che ciò succeda. E cominciamo a inquadrare la questione: che cosa significa per un adolescente, soprattutto in quella fascia di età dove le insicurezze la fanno da padrone, insomma, soprattutto su se stessi e sulla propria esistenza. Allora, dirò innanzitutto qualcosa di quasi banale per uno psicologo, e cioè che l'adolescenza è l'età della vita che ha la funzione di rispondere alla domanda chi sono io, cioè è l'età della vita nella quale più concretamente si costruisce l'identità di una persona. È intuitivo allora che in questa età della vita è importantissimo quello che dicono gli altri di chi sono io, donde la estrema vulnerabilità e condizionabilità delle persone, giovani, maschi, femmine, di altri sessi intermedi o superiori, in questa età. Perché è un'età nella quale, come dire, tutto ciò che viene dagli altri è estremamente importante, perché può costituire conferma o disconferma di qualcosa che una persona sente in quel momento, può costituire un aiuto oppure può costituire un trauma, perché in questa fase appunto il nervo scoperto dell'identità dà all'adolescente una particolare vulnerabilità. Quindi da questo punto di vista è vero che è, come dire, una volta si chiamava derisione, una volta si diceva mi prendono in giro papà o mamma, adesso si chiama bullismo, ma c'è sempre stato sotto altre forme, questo è verissimo, però una volta era mi prendono in giro, adesso è mi insultano, mi dicono che sono grassa, mi dicono che non merito di vivere, mi dicono che sono brutta, mi dicono... Da questo punto di vista non è che la rete inventa qualcosa, ma la rete amplifica purtroppo tutti i meccanismi, perché un conto è che ti prenda in giro una persona e un altro conto che una persona ti prenda in giro in pubblico, cioè ti prenda in giro mentre altri, o ti insulti mentre altri sono collegati allo stesso social network e vedono che ti prende in giro e si possono unire al coro, per cui è molto più devastante. Da questo sì, punto anche di... perché magari l'insulto in pubblico, anche quello c'è sempre stato, però era relativo a un gruppetto ristretto che si ritrovava intorno alla persona insultata, mentre invece adesso è tutto il mondo, voglio dire, il pubblico, quindi solo questo pensiero già è devastante. Esattamente, e non solo, ma il rapporto col pubblico è diventato un rapporto molto più difficile da gestire, perché è un pubblico fatto di persone che non possono nascondersi è un conto, è un pubblico di persone fatto di persone che si nascondono è un altro conto. È molto più violento, è molto più difficile da gestire un pubblico che ti giudica nascondendosi, che tu non puoi raggiungere. Se tu hai un pubblico di compagni di classe e sai qualcosa di loro e poi a tua volta in qualche modo reagire o rispondere è un conto, ma se il pubblico di coloro che ti prendono in giro ti insultano è un pubblico irraggiungibile che si nasconde, certe volte la cui identità è incerta o mascherata, è ovvio che è molto più difficile, molto più duro. Bene, Willy, intanto ricordiamo sì. I nostri numeri, cosa ne pensi? Allora, cominciamo col mobile, 333-1809494, a te per il fisso. 051-3464-58. Chiunque di noi ha ricevuto insulti, possiamo parlarne anche insieme, se ve ne sì. ricordate qualcuno, se ne avete avuto appena uno, se avete figli secondo. Che sono vessati da... compagnucci simpatici tra virgolette. Quindi dai, aiutateci a condurre questa trasmissione, intanto direi che possiamo andare in musica e poi torniamo. Thank you. 333-180-9494 per i vostri sms, ma chiamate anche in diretta allo 051-3464-58. Francesca diceva, avete mai avuto aggressioni anche verbali unicamente da bulli, cosiddetti bulli e bullismo? E io aggiungo, figuriamoci se a 13 anni uno è alto 1,93 per 78 kg, pensate un po' quanto ne avrei da raccontare, ma è meglio che racconti, è meglio che racconti. Abbiamo toccato il tasto dolente della regia questa mattina. Senti, ma dopo glielo facciamo raccontare? Certo. Come no? Però preparati la sintesi, perché sennò ci servono 8 trasmissioni. Infatti. Allora, ricordo anche la mail amicidirivivere@gmail.com nel caso uno volesse scrivere qualcosa di più composito, pensarci di più, eccetera. Intanto ci scrive Micaela che rompe il ghiaccio e ci aiuta proprio in questa riflessione di oggi. Intrappolata in un'eterna adolescenza è la domanda che si pone. Il nervo dell'identità è ancora relativamente scoperto, dovrei devitalizzarlo, meglio, dovrei scoprire quali strumenti mi sono mancati per crescere, anche perché tra qualche anno vorrei trasmetterli a mio figlio. Suggerimenti? Ecco, allora, questo messaggio, come dire, ci consente, come dal punto di vista psicologico, di uscire un attimo da quella che sembrava una banalità, e cioè l'adolescenza è l'epoca della vita che è caratterizzata dallo sforzo dell'acquisizione dell'identità personale, no? Che ne è di questo processo nella nostra epoca? Nella nostra epoca l'adolescenza tende a prolungarsi oltre limiti prima impensati, anche perché questo è in relazione anche al fatto che i modelli che vengono proposti sono modelli non così prescrittivi, non così repressivi, ma sono modelli permissivi, e certe volte non sono neanche modelli, cioè sono modelli in crisi, contraddittori, per cui, come dire, la domanda di Micaela, la domanda è una domanda che direi tanti si fanno anche oltre l'adolescenza oggi, perché il processo di acquisizione dell'identità personale tende ad andare molto oltre le età canoniche che noi chiamiamo adolescenza, per cui potrebbe anche darsi, e Micaela sarebbe in buonissima compagnia, ci sono tante persone così, eccetera, che hanno ancora da adulti il nervo scoperto. Questo ci porta ad affrontare uno dei problemi cruciali della nostra epoca, che è alla base di tante situazioni di crisi, e cioè il problema della identità non ben definita, dell'identità che magari per tutta la vita, non per colpa di nessuno, ma per circostanze culturali, resta tale, può restare tale. Il che naturalmente, come giustamente si dice nel messaggio, si può ripercuotere sul rapporto educativo con i figli, perché è ovvio che nel rapporto con i figli l'avere un'identità forte da proporre a un figlio, talvolta, se si è autoritari e repressivi, è una cosa negativa, ma avere un'identità quando si ha un figlio e avere un modello da proporre, sapendolo proporre in un modo giusto, è un grande vantaggio dal punto di vista educativo. Altrimenti le domande cruciali dell'educazione, come vorrei che mio figlio fosse, quali atteggiamenti penso che siano giusti, per esempio nei confronti della violenza, no? Se ti menano, che fai? Li meni anche tu? Rispondere a questa domanda, se uno ha un'identità non ben definita, è difficilissimo. Quindi, come dire, noi siamo di fronte, Micaela ci mette di fronte, a un problema che è un problema tipico della nostra epoca e che è alla base di tante crisi, e cioè il problema della difficoltà nella nostra epoca, nella nostra cultura, di acquisire un'identità definita e forte. Per cui, donde una delle crisi fondamentali della nostra epoca, che è la crisi della figura educativa paterna, che è quella che dal punto di vista dell'identità è stata sempre in tutte le società in qualche modo deputata alla trasmissione di un modello in qualche modo di identità, di personalità, così eccetera. Suggerimenti. Direi che oggi il grosso problema di tutti quelli che hanno superato l'adolescenza ma sono ancora col nervo scoperto dell'identità, cioè che non hanno un'identità ben definita, tantissime persone nel nostro contesto culturale, il problema di queste persone è di riuscire a conciliare due esigenze opposte, e cioè l'esigenza di acquisire finalmente un'identità, però di mantenere quella che è la cosa positiva della nostra epoca, e cioè che il fatto che le persone non hanno un'identità così ben definita fa sì che quando incontrano un altro, l'altro gli possa parlare. Perché se uno ha un'identità così ben definita, nell'incontrare un altro, se quell'altro ha un'identità poco definita, lui diventa il capo e si determinano rapporti di dipendenza. Se quell'altro ha un'identità altrettanto definita, c'è la guerra. Ma infatti mi ricorda questo discorso, le prime puntate che facemmo di Oltre la crisi parliamone, dove parlammo appunto di identità, e tu lanciasti una provocazione molto seria del tipo: perché non impostare cioè si è sempre detto che l'identità è importante, molto definita eccetera eccetera, perché non cambiare rotta e impostare invece un qualcosa che veda un'identità più eterea, possiamo dire così, più liquida, più diffusa. E mi chiedevo, in questo contesto, nella relazione educativa, come si può... Ma secondo applicare. Me la cosa, se le due esigenze si possono conciliare, se chi educa, piuttosto che fornire il modello di un'identità stabile, fissa e definita, aiuta il bambino nella crescita a cogliere gli aspetti positivi dell'identità nel tempo, cioè seguendo i cambiamenti che nel tempo ci possono, cioè l'identità dovrebbe essere non definita o indefinita, ma dovrebbe essere infinita. Cioè la costruzione dell'identità, se è definita, bisogna avere un modello precedente e si diventa, inevitabilmente si cade nell'autoritarismo e nella repressione. Se è indefinita, non si ha nessuna identità e inevitabilmente si cade nell'insicurezza. Il nostro problema oggi è chiarissimo: noi abbiamo bisogno di comunicare ai ragazzi e di comunicare a noi stessi che la costruzione dell'identità è importantissima, però è una costruzione all'infinito, non finisce mai. Ti fermo un secondo perché arriva un messaggio. Tu sei uno psicologo e hai parlato di identità prima di indirizzo, diciamo, paterno nella costruzione dell'identità, di influsso paterno. Ovviamente ne hai parlato dal punto di vista psicologico, e giustamente ci arriva una domanda via SMS che dice: allora che succede a chi ha perso il padre da piccolo, che vorrebbe dire che l'identità non ci arriva mai? No, questo tra l'altro... Quindi spieghiamo meglio no, questo messaggio. No, questo è molto importante, questa domanda, infatti. Perché... Io ho anche quella, Certo, perché tra l'altro, certo, quindi già rispondiamo a te. Questo tra l'altro è una delle dimensioni di cui noi ci occupiamo, perché noi ci occupiamo dell'assistenza alle persone in lutto col progetto Rivivere a Bologna, e talvolta ci capitano i bambini che hanno perso un genitore, che hanno perso la mamma o il padre, e il nostro problema è di aiutare questi bambini e il genitore superstite e gli altri adulti che stanno attorno e a cui è affidata poi l'educazione di questo bambino, di aiutarli a far sì che le conseguenze della perdita del genitore, in questo caso stiamo parlando del padre ma potremmo parlare anche della madre da un altro punto di vista, non abbia le conseguenze devastanti che potrebbe avere e che possono influenzare, quando queste conseguenze si verificano, tutta la vita di una persona. Quindi il problema è non tanto l'avere il padre biologico, il problema è avere nella propria esperienza una funzione educativa paterna che può essere svolta anche in modo plurale da 5 o 6 persone. non è detto che debba essere svolta, l'importante è che ci sia. Anzi, quando viene svolta in modo plurale da tante persone, l'importante è che non ci sia il conflitto tra queste persone, perché se c'è conflitto questa è una cosa negativa. Se non c'è conflitto, per esempio, in una certa fase la svolge lo zio, in un'altra fase la svolge la stessa mamma che è rimasta per la sua parte, in un'altra fase ancora la svolge un amico o un insegnante e così via, quella persona lì cresce benissimo e non soffre per la mancanza del padre biologico. Il problema è invece quando si verifica o il fatto che la funzione paterna non viene assunta da nessuno, cioè quel posto resta vacante, e questo è tragico per un bambino, oppure quando qualcuno la assume, per esempio quando la mamma si risposa e arriva uno che pretende di farti da padre e che però non riesce, ti propone un modello paterno che è un modello paterno fisso a cui tu devi aderire, per cui tu prima o dopo gli dici: ma chi cavolo sei, non sei mica mio padre, e ti ribelli, però finisce per mancarti lo stesso la funzione paterna. E le cose funzionano invece quando ti fa da padre un po' il fidanzato di tua mamma, ti fa da padre l'insegnante dopo un po' quando vai a scuola, poi ti fa da padre un altro insegnante, poi ti fa da padre uno zio, poi ti fa da padre un amico e così via. Quello che mi fa riflettere è che appunto noi usiamo questa terminologia modello paterno, modello materno, perché si riferisce a un'impostazione di una società che è stata oggi forse pian pianino sarebbe il caso di riaggiornare anche la terminologia, perché in realtà sono modelli, come dicevi prima tu, anche infiniti volendo, che si propongono nella vita delle persone e che possono appunto portare strumenti, come diceva Micaela, o opportunità. Certo, cioè, ma ci sono come dire atteggiamenti di conservazione nella nostra cultura che tendono a pensare che l'unico modello possibile sia avere un solo padre e una sola madre, cosa che è sbagliatissima. Perché nel mondo di oggi, anche quando il padre e la madre sono vivi, ti servono altri padri e altre madri, perché il tuo papà e la tua mamma sono in piena crisi. Bene. Musica pubblicità, cosa dite voi? Musica pubblicità, direi. Allora, guarda un po'. Io ti mando. Adesso che abbiamo saputo che sei un disastro totale. Sì, una disgrazia. Ma hai telefonato qualcuno? No. Io. Vuol telefonare Willy. Adesso va nella stanza di là e telefona. Ah, ecco. Allora, ricordiamo il numero di telefono: 051 346 458, oppure per SMS e WhatsApp 333 180 94 94. A fra poco, state con noi. Alla 13.34 su Radio Città Fujiko 103.1. Intanto ringraziamo Massimo che giusto a ridosso della pubblicità ha chiamato, quindi grazie Massimo, con un'affermazione assolutamente importante e da commentare. L'affermazione è questa: padre è NN, cioè non nominato, madre magari inconsistente o assente. In questo caso come ti rapporti con la vita? Sì, è vero, si può parlare di più papà, ma in tutti i modi bisogna tirare fuori la grinta, bisogna far vedere che si è presenti, bisogna formare la propria personalità, o meglio io aggiungo, bisogna fare come si può, bisogna prendersi le proprie responsabilità, diventare quello che dicono grandi in fretta. Massimo ha usato altre parole, quelle decise e più dedicate a quello che è la grinta, quello che è insomma tirare fuori gli attributi, in poche parole. Questa è stata la telefonata che è arrivata allo 051 34 64 58. Professore, ma dunque, si sono diversi fattori che contribuiscono a far sì che uno in una situazione di quel genere, cioè senza genitori, se la possa cavare oppure no. Uno dei fattori è verissimo, in psicologia si chiama resilienza. Cioè, le palle in psicologia si chiamano resilienza. Cioè, che nome è? Difficile, non lo so neanche dire. C'ho una resilienza oggi. Io sono una resilienza, non riesco neanche a sedere. Allora, la resilienza è la capacità di un metallo, è un termine che viene dall'industria metalmeccanica. È vero. È la capacità di un metallo di tornare alla sua stato precedente dopo essere stato sottoposto a un grosso stress. Cioè, se un metallo viene riscaldato e poi torna come era prima, se un metallo viene tirato da tante parti, spezzettato e poi torna come era prima, è un metallo più resiliente di un altro metallo che invece non torna alla posizione di prima. Gli psicologi hanno preso questa caratteristica dei metalli come metafora per dire che ci sono persone che sono più resilienti di altre, cioè ci sono persone che hanno più palle di altre. Gli succede che gli muore il papà o la mamma e queste persone hanno in sé una forza, appunto le palle, la resilienza, che li fa reagire nel modo giusto, le fa reagire non deprimendosi, ma tirando fuori tutte le loro caratteristiche positive e così via. Questo però, attenzione, le palle non si improvvisano, uno ce le ha o non ce le ha. Sì, è vero. Quindi non è che noi possiamo contare sulle palle per tutti, quindi non possiamo pensare, come ci sono certi psicologi che dicono, quello che conta è la resilienza. Se la resilienza è qualcosa di biologico, quello che conta però non è soltanto la biologia, c'è anche la persona, cioè la soggettività, la creatività personale con cui tu prendi le cose. Per esempio, uno potrebbe non avere resilienza, potrebbe non avere nessuna capacità di adattarsi a una certa situazione, ma essere così simpatico che tutti gli vogliono bene e tutti se lo portano a casa. Esiste? Non è per niente resiliente, non ha per niente palle, ma si salva lo stesso. Oppure potrebbe essere circondato da un mondo solidale che invece, cioè fatto da persone che invece di pensare solo a se stesse pensano anche agli altri, e appena vedono questo bambino abbandonato nel mondo non fanno altro che dedicarsi a lui, proteggerlo, aiutarlo a crescere e così via. e anche senza palle, se uno è circondato da un mondo solidale, se la cava lo stesso. E qua mi viene un commento che faceva una persona che conosco nei giorni scorsi, chiacchierando, una persona che ha un figlio di 17 anni e mi ha detto una frase un po' così che mi ha lasciato in riflessione: questo non è un mondo per delicati, riferendosi al ragazzino 17enne, che da un lato potrebbe avere un senso, ma dall'altro mi viene da rispondere: non è nemmeno un mondo per duri, perché scornandosi contro il cemento armato molto spesso le corna si sbriciolano anche. È un mondo per opportunisti. E gli opportunisti sono duri o sono morbidi? Gli opportunisti sono morbidissimi dal punto di vista dell'adattamento e sono durissimi dal punto di vista dell'egoismo. Quindi, cioè, come dire, il mondo di oggi è un mondo nel quale, se si va, se si continua ad andare in questa direzione, è un mondo nel quale sopravvivono quelli che non hanno scrupoli. Sopravvivono gli opportunisti, sopravvivono quelli che si riescono ad adattarsi a tutto. Questo è il mondo di oggi. Il problema è se questo mondo fa, se ci sono al mondo persone, per esempio, persone pure, persone che pur di non tradire certi principi non si adattano, cioè le persone non opportuniste in questo mondo fanno poca strada. Allora il problema è cambiare il mondo, cioè se il mondo è adatto per gli opportunisti, sarà adatto solo per una parte di noi, per tutti quegli altri sarà un mondo di merda, no? Quindi il problema è, non possiamo tutti diventare opportunisti, bisognerà che quelli che riescono ad essere opportunisti si salvano essendo opportunisti e bisognerà anche che contribuiscano un po' a cambiare il mondo in modo tale che si salvino anche gli altri. Quindi la sollecitazione del tuo amico... Ma che interesse hanno gli opportunisti che si salvino anche gli altri? Hanno un grande interesse, perché nel momento in cui un idealista non in grado di fare nessun compromesso si arrabbia ed ha potere, li uccide tutti gli opportunisti che gli capitano a tiro. Quindi anche gli opportunisti hanno grande interesse. Perché quelli che non ce la fanno ad essere come loro e a salvarsi nello stesso modo in cui si salvano loro, si salvino. Perché in fondo ci devono convivere. Così è dall'altra parte. Noi certe volte, come dire, pensiamo che ci sia una sola via di salvezza. Ce ne sono tante. Per cui, per esempio, in certi momenti storici, l'opportunismo è un modo per salvarsi. Ma non è adatto per tutti, però. Per cui, per esempio, se uno si è salvato con l'opportunismo, potrebbe poi riscattarsi aiutando quelli che non si salvano con l'opportunismo. Vabbè, sono perplessa dopo questa. Ma uno potrebbe cambiare? Certo, con grande difficoltà essendo aiutato. Difficile. Il problema è, oggi per esempio, dal punto di vista psicologico, ci sono due grandi scuole. La scuola secondo la quale non si cambia e ci si può solo raccontare in un altro modo quella sfiga che ti è capitata, che tanto non cambia, no? Quello che hai perso, le cicatrici che hai, le cose che non tornano più, il fatto che si cresce, si invecchia e poi si morirà, cosa c'è da cambiare? Non cambia, ci sono cose che non cambiano, no? E allora c'è una scuola di psicologia che è una forma di saggezza che dice l'unica cosa che possiamo fare rispetto a ciò che non può essere cambiato è raccontarcela in un modo da poterci convivere, no? C'è invece un'altra scuola di psicologia che dice noi possiamo cambiare non solo cambiando noi stessi, ma cambiando il mondo. E cambiando il mondo ci può ispirare un altro modo di essere diverso da quello di prima. E mentre tu cambi il mondo, ci arriva un messaggio. Ecco. Allora. Sei contento che hai cambiato il mondo, Francesco? Io no, ancora non l'ho cambiato. Non l'ha cambiato. Ci stiamo preparando, però. No, non ci rinuncio. Ah, ok. Poi tutte le volte prendo delle scornate. Allora, salve, a me nel 2003 è morto mio padre. L'ho visto andarsene davanti a me, intanto la mia ex mi tradiva con un amico. Io ho reagito come supporto solo per la mia famiglia natale, ma poi ho avuto un crollo con perdita di memoria. Una volta ripreso mi sono reso conto che non riesco più a provare affetto per una donna. Questo è il messaggio che ci arriva. Allora, se uno viene tradito dalla sua donna nel momento in cui avrebbe più bisogno di lei, no? Inevitabilmente, dal punto di vista psicologico, si forma nella mente di questa persona la convinzione che tutte le donne sono così. Convinzione totalmente sbagliata, perché tutte le convinzioni che derivano da una nostra esperienza sono generalizzazioni di quell'esperienza che possono portare a pensare che la nostra vita si ripeterà sempre uguale così. Non è vero. Non è vero che tutte... Se tutte le donne tradissero quando tu più hai bisogno di loro, il mondo sarebbe già crollato da un pezzo, sarebbe stato distrutto da un pezzo. In realtà ci sono tantissime donne che quando tu ne hai bisogno non ti tradiscono, e c'è da augurare a questa persona che ci scrive che un giorno o l'altro lui possa avere la sorpresa che ne incontri una che non lo tradirà nel momento in cui ne ha più bisogno. Il problema però è che se una donna, e quindi forse lui bisognerebbe... Il problema è come lui riapre, sì, uno spiraglio. Certo, perché... ma lui bisognerebbe che si... Per aprire lo spiraglio però bisognerebbe che lui si chiedesse, no? Se una persona ti tradisce nel momento in cui tu ne hai più bisogno, hai più bisogno di quella persona, vuol dire che quel rapporto con quella persona era basato sullo stare bene, non sullo stare male. Perché certe volte le persone ti vogliono bene, per esempio quando si dice gli amici scompaiono quando uno non ha più soldi, quando non ha più niente da dare, quando diventa, si ammala, nei momenti del bisogno gli amici scompaiono. Ma perché scompaiono? Tu vai a vedere perché, è perché tu avevi con loro un rapporto solo di divertimento. Se tu hai un rapporto solo di divertimento con uno, nel momento in cui c'è da penare, quello se ne va. Perché allora bisogna vedere che tipo di rapporto hai con chi ti tradisce. Mai uno ti tradisce se hai un rapporto adeguato al fatto che stia con te. Uno ti tradisce, ci sono sempre delle ragioni per cui uno ti tradisce. Non che questo giustifichi il tradimento, no, certo, o renda meno doloroso il fatto di subirlo. Però quello che bisogna chiedersi quando una persona ci tradisce nel momento del maggiore bisogno, bisogna chiedersi se per caso il rapporto con quella persona fosse un rapporto basato sullo stare bene. Se era basato sullo stare bene, per forza che quello quando si sta male se ne va, perché era basato sullo stare bene. Allora il problema è, noi dovremmo, se non vogliamo essere traditi, dovremmo avere rapporti che reggano al male, cioè rapporti per cui noi ci leghiamo agli altri nel bene e nel male. Purtroppo noi siamo abituati a legarci a chi ci sta a stare bene, chi ci fa ridere, a chi ci fa... siamo abituati a legarci soltanto a chi ci fa star bene. Noi ci dobbiamo, quando incontriamo qualcuno, ci dobbiamo rendere conto se quel rapporto reggerà nel male, perché nel bene non ci vuole molto, perché ecco. Come dargli torto? Direi che possiamo andare. Dove vuoi musica? Andare? Dimmi, vuoi andare in musica? Troppe cose, ho bisogno di riflettere un attimo. Allora, George Benson. Oh. Feel like making love. Minuti assieme a Oltre la Crisi per questo mercoledì 12 febbraio. Intanto volevo dirvi che la Consulta boccia la Fini Giovanardi, definita incostituzionale. E vai con il cambio del mondo! un passettino volendo. Lo stiamo facendo. Beh, un piccolo grande passo verso un cambiamento, insomma, almeno così lo possiamo. Ci piace che questa notizia sia arrivata, sì, a Oltre la Crisi parliamone. Lo possiamo annunciare noi. Ecco, lo possiamo annunciare. Ci potremmo per esempio aspettare che cambi qualcosa dal punto di vista di quella, di quell'altra crisi di cui abbiamo parlato, no? La crisi, le crisi che derivano dall'immigrazione. Esatto. Sì. Intanto è arrivato un SMS che ha già cambiato la trasmissione a sua volta. Certo, e ci ha già dato lo spunto per andare avanti. È questo che serve. È la trasmissione che fanno gli ascoltatori e le nostre ascoltatrici. È proprio questo che vogliamo. Allora, è Micaela che dice: non ho ancora capito se sono solo fessa o poco opportunista. Vado decisamente poco avanti nella vita. Vi prego, riparlate nelle prossime puntate dell'argomento. Riflettere su come cambiare me e il mondo mi sembra utile, meglio della mia rabbia per sentirmi vittima. E intanto promettiamo a Micaela che continuiamo sicuramente, anche perché una cosa del genere non si può certo esaurire in un'oretta scarsa. Però a te la palla, Francesco. No, ma a me sembra che, come dire, noi di converso dovremmo dire a Micaela, si chiama così, che stia con noi anche le prossime volte, perché questo spunto finale del suo messaggio, che è meglio cercare di cambiare se stessi e il mondo piuttosto che farsi prendere dalla rabbia per tutto quello che ci succede, è credo un punto di partenza fondamentale, è un punto di partenza fondamentale per affrontare con calma, col tempo necessario, il problema di cambiare se stessi e il mondo. Perché se tu sei arrabbiato, se te stesso e il mondo non lo cambi. Non puoi cambiare te stesso e il mondo se sei arrabbiato. Più sei arrabbiato e più è difficile che tu abbia la calma, il tempo, che chieda l'aiuto agli altri per cambiare te stesso e per cambiare il mondo. Quindi mi sembra che quello che si dice qui è un punto, cioè precisamente, come dire, una specie di principio su cui noi, parlandoci della crisi, a cui dovremmo attenerci, no? Se noi riuscissimo ad attenerci a questo principio tutte le volte che siamo in crisi, cioè se sapessimo tutte le volte che siamo in crisi che è molto meglio cercare di cambiare noi stessi e il mondo come risposta alla crisi piuttosto che seguire la rabbia, questo cambierebbe il mondo. Ma non è semplice, detta come vedete, perché la rabbia esplode. Sì, però se tu quando ti esplode, quando ti senti arrabbiato, perché inevitabilmente sei arrabbiato quando qualcosa ti colpisce e ti fa male, inevitabilmente sei arrabbiato, certo. Anzi, va benissimo che sei arrabbiato. Quando però sei arrabbiato e tu hai dentro di te la convinzione che è sempre meglio cambiarsi e cambiare il mondo, la rabbia non la segui. La rabbia diventa un motore per produrre energia per cambiare se stessi e il mondo. Perché una delle energie del mondo. Bella questa, quindi la rabbia non come forza autodistruttrice, brava, ma come spinta propulsiva, come motore. Certo, ma come energia, benzina. Ma come benzina per cambiare il mondo. Perché assolutamente ecologica, peraltro. Ecco, certo, senza fumi, senza non aumenta l'effetto serra, mentre invece se tutti arrabbiassero, aumenterebbe la temperatura del mondo. che quando, non ci avevo pensato queste cose. Bisogna che ci arrabbia molto, però. Ma se tutti sono tutte le rabbie tutti insieme, certo, come no? E infatti, cioè, l'effetto serra dopo impazzirebbe ancora di più. Lo zono. Che scossa la testa. E poi dobbiamo comunque ricontinuare sul filone bullismo, sul filone soprattutto aggressivo, diciamo, all'identità. Quindi, Michaela, sicuramente continueremo su questi ragionamenti, anche perché sono quelli poi che ci forgiano o meno ad affrontare il nostro cambiamento del mondo, appunto. Beh, puntata ricca, direi, a questo punto. Direi proprio di sì. Accidenti, temi trattati importantissimi. Tra l'altro, ho dato lo spunto anche con una frangia improvvisa di svoltare per una progressione nella prossima puntata. 13:55. Come vogliamo salutare le nostre ascoltatrici? No, Willy, noi vorremmo sapere com'era essere 1,90. Vedi, ti ho dato proprio ai pochissimi minuti. Ma infatti, secondo te, perché io ho anticipato i saluti? Mi mandi in crisi? No, com'è? No, è difficoltoso. Così chiudiamo con questo la prossima volta. È difficoltoso, perché te ne rendi conto quando sei più adulto, che insomma non è certamente un limite, però quando sei in un mondo di adolescenti e si sa che l'adolescente per antonomasia è, perdonatemi la parola, stronzo, purtroppo ne paghi le conseguenze. Quindi la domanda è sempre quella: se sei così per svitare i lampioni che aria tira lassù, se ti hanno innaffiato da piccolo, se ti devi... Cioè potrai andare avanti fino alle 7 di questa ma sera. Ma tu pensa a me, però, perché tu, guarda, tu non sai cosa mi succedeva a me. No, scusa se ti interrompo, professore, ma non è assolutamente paragonabile, perché al grande lo prendi in giro, al piccolo no. Ma tu però adesso stai paragonando me a te. Non era per quello che mi prendevano in giro a me, per un altro motivo, perché mi chiamo Campione. E dicevano campione senza valore. No! Ma vuoi scherzare? No. È molto peggio, non è. No. Questa chiusura di trasmissione. No, campione senza valore. No, per me sei campione del mondo. No, campione senza valore. No, io ti elego in questo momento campione del mondo, guarda. Quindi per cui direi proprio che con questo nostro sfogo abbiamo avuto uno sfogo comune, vedi? E questo è bellissimo parlare. No, questo vuol dire che, come dire, chi è senza. Chi è senza sfogo scagli la prima pietra. Ma infatti ci scrive Manuela, così la prossima volta riprendiamo tutto lo standard. Era alta 1,90 Manuela. No, Manuela era Zero Tette o Santa Cruz, che è una famosa marca di tavole da surf. Applauso. Quindi... senti. Come si chiama questa ragazza? Manuela, ti posso dire una cosa? A me le ragazze con un seno contenuto sono sempre piaciute tantissimo. Ecco. Hai capito? E quindi... Oppure le dicevano anche: ma sei cresciuta in un circo? Questa no, credo che fosse relativa alle tette. No, quel seno non c'è. Beh, dopo Manuela ci spiegherà tutte le conseguenze, ci racconterà tutte le conseguenze. Beh, grazie. Diciamo che con quest'ultima affermazione ha un po' stupito, però insomma direi che crescere in un circo ci sembra un pochettino eccessivo. Noi diamo appuntamento, visto che sono le 13:58, a mercoledì prossimo con il giusto proseguio ad oltre alla crisi e di mettere carne al fuoco, ne abbiamo in abbondanza. Io saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori, per chi non ha ancora mangiato, buon appetito, restate sui 103.1. Ringraziamo chi ci ha aiutato a condurre questa trasmissione e li invitiamo a aiutarci anche la prossima volta. A dirci i loro difetti adolescenziali. Dai, potremmo fare una puntata con tutti gli insulti. Ma se continuiamo. È un bello sfogo anche. Ma se continuiamo, vedrai che ce lo dico. Sì, mi piace. Quindi si può essere libero sfogo. Sorry, ciao a tutti. Ciao. Ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see. That the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Of make believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow. Oltre la crisi, parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Yeah.